Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono quasi le 17.09 minuti. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia, il resoconto della giornata economico-finanziaria. Giornata in cui continuano ad accavallarsi notizie sul fronte europeo, tutte molto importanti. Notizie che peraltro hanno anche e soprattutto a Milano oggi galvanizzato le borse europee. Le altre sono state un po' più spente, per la verità. Quali erano queste notizie che hanno movimentato la seduta, soprattutto raffreddando e restringendo di nuovo gli spread, i differenziali tra il Bund tedesco e i paritetici per quello che riguarda la durata, spagnoli e italiani? La notizia era relativa a questa proposta italiana di usare il fondo salva stati europeo, quello temporaneo, non il meccanismo di stabilità permanente che partirà a luglio, per evitare oscillazioni eccessive sugli spread e quindi utilizzare questo fondo per acquistare, soprattutto in fasi particolarmente di fibrillazione sul mercato, i titoli di Stato dei paesi in difficoltà. La proposta al mercato è piaciuta perché, come vi dicevo appunto, gli spread si sono ristretti sensibilmente oggi, però nonostante anche dal G20 sembravano esserci dei consensi rispetto a questa proposta di Mario Monti, la raffreddare oltre agli spread anche gli animi e gli entusiasmi, sono intervenute le dichiarazioni più o meno ufficiali della Commissione europea. Il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari e finanziari Olli Rehn ha definito questa proposta un paracetamolo finanziario che può attenuare il malessere ma non risolve le cause strutturali del problema. E quindi poi andremo a Bruxelles per capire effettivamente che cosa si intende con questo. Effettivamente è abbastanza chiaro, è chiaro che bisogna risolvere i problemi dell'Europa in termini più strutturali e importanti, però siccome il mercato ha reagito bene di fronte a questa proposta, se tutte le soluzioni sono dei paracetamoli, allora se non si parte mai con nulla, sicuramente ad una soluzione definitiva non si arriva. Detto questo, oltre alla questione di carattere internazionale, quindi l'aspetto anche di Bruxelles che è uscito oggi dopo la proposta di Mario Monti, andremo a vedere anche in Grecia cosa è successo nelle ultime ore. Il nuovo governo, maturato anche dai risultati elettorali di domenica scorsa, è pronto, pronto anche a giurare nelle prossime ore, e ci faremo raccontare tutto dall'inviato del Sole 24 Ore ad Atene, Vittorio Darold. Le borse, dicevamo, sono positive in particolar modo in questo momento. La mattinata è stata più incerta, si è sempre distaccata da tutte le altre piazze. Milano, che anche adesso sta guadagnando quasi 2 punti avvicinandosi alla chiusura, le altre piazze più tranquille, anche Wall Street in questo momento assolutamente piatta. C'è grande attesa per la Banca Centrale Americana, per la riunione iniziata ieri del braccio monetario della Federal Reserve, il Federal Open Market Committee, che tra qualche ora farà sapere, a parte se interviene o meno sui tassi. Sembra improbabile, più probabilmente sembra che sia pronta la Federal Reserve ad annunciare una nuova iniziativa straordinaria di stimolo monetario, una nuova operation twist, una nuova operazione twist, quella che praticamente si concretizza con scambi di diverse titoli di Stato di diverse scadenze appunto americane, e vedremo appunto se questo verrà confermato, lo sapremo davvero tra qualche ora. Gli altri temi che affronteremo oggi, ce ne sono molti. Nomisma Energia dice che da luglio arrivano nuovi rincari sulle bollette degli italiani. Solitamente Nomisma anticipa sempre le decisioni ufficiali dell'autorità del gas e dell'energia, facendo anche molto spesso arrabbiare l'autorità per queste anticipazioni, però di fatto poi vengono sempre confermate queste anticipazioni e le notizie non sono buone, quindi avremo un'estate rovente sia dal punto di vista meteorologico, se l'anticipo che abbiamo visto questi giorni si ripeterà, sia dal punto di vista dei rincari appunto e delle bollette. Torneremo sulla questione degli esodati dopo l'informativa ieri al Senato. Oggi il ministro Fornero è andata di nuovo in Parlamento, ma alla Camera, sempre per appunto documentare gli altri parlamentari sulla questione degli esodati, e sono state fatte altre precisazioni. Tra le categorie dei cosiddetti esodati da salvaguardare, il ministro Fornero ha detto che potrebbero essere inseriti anche quelli che hanno superato una certa soglia di età, per esempio 62 anni. Un altro tema del quale parleremo oggi, parleremo di microcredito, perché c'è da qualche tempo, non è ancora completamente operativo, ma è pronto a iniziare il suo lavoro, il Comitato Nazionale per il Microcredito, presieduto dall'onorevole Mario Baccini, ci racconterà chi può ottenere questi soldi stanziati appunto da questo fondo. Noi conosciamo soprattutto il modello indiano del microcredito, che cerca di garantire finanziamenti per microscopiche attività di impresa a soggetti che difficilmente potrebbero accedere al sistema del credito, quindi non bancarizzati, non so neanche se si dica così, in termine che mi suona anche male, ma in ogni caso ci sono delle istituzioni finanziarie che in Italia si sono attivate in questo senso. C'è anche però questo organismo istituzionale, cercheremo di capire se quanti soldi ha raccolto, intanto quanti ne ha disponibili e soprattutto chi può finanziare. Quindi tanti i temi anche molto interessanti da commentare questa sera, e se volete commentare i temi di quest'oggi potete farlo come sempre alle 349 238 6666, è il numero appunto per i vostri SMS. Adesso però andiamo alle notizie in breve di oggi. Il paracosa, diceva un ascoltatore, il paracetamolo finanziario che attenua il malessere. E vabbè, questo è quanto ha commentato appunto il portavoce di Olli Rehn oggi rispetto alla ricetta di Monti per raffreddare gli spread, ma ne parleremo diffusamente fra un quarto d'ora circa. Adesso le altre notizie. Materie prime, allora, come hanno aperto oggi, come stanno andando le quotazioni di oro e petrolio? Per l'oro 1620,65 dollari l'oncia, il petrolio oggi a New York aperto in calo a 83,90 dollari al barile. Ve lo dicevo prima, probabili nuovi rincari sulle bollette degli italiani a partire da luglio. Ad anticiparli, in attesa delle decisioni ufficiali sulle tariffe dell'Autorità per l'Energia a fine giugno, è il Centro Studi Nomisma Energia, secondo cui per il gas ci sarà un incremento del 2%. Per la bolletta dell'elettricità, dopo già la stangata appunto recente, dell'1,5%. Come sono andati gli spread oggi? Ve lo dicevo. Allora, intanto quello italiano molto bene, addirittura arrivato a 412 punti base. Ricordiamo che negli ultimi giorni è stato più volte sopra anche i 4,70. Quindi il tasso del BTP decennale sul mercato secondario è sceso al 5,73%. Per quello che riguarda il differenziale fra i bonus, quindi i decennali spagnoli, e il Bund, anche da questo fronte buone notizie, siamo scesi sotto i 510 punti base. Antonis Samaras, leader del partito Nuova Democrazia, che ha vinto le elezioni domenica scorsa in Grecia, ha giurato davanti al presidente della Repubblica Papoulias e alla presenza, come da tradizione, dell'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Hieronymos. Allora, potrebbe essere 62 anni l'età oltre la quale si potrebbe avere diritto alla salvaguardia del governo e alla possibilità di andare in pensione con le vecchie regole. Quanto emerge dall'informativa del ministro del lavoro Elsa Fornero alla Camera a proposito dei lavoratori da tutelare, oltre quelli, come si era già specificato fin dal primo momento, destinatari di accordi collettivi. Per quello che riguarda la riforma del lavoro, che mi auguro verrà presto approvata in quest'Aula, ha un buon equilibrio, ha detto la Fornero, fra le contrapposte esigenze tra domanda e offerta di lavoro. La Fornero appunto lo ha detto sempre al termine di questa informativa alla Camera sugli esodati. Elsa Fornero ha ribadito che la riforma non è dogmatica e che il governo è disponibile ad intervenire per i necessari aggiustamenti. Le cifre sugli esodati, e vediamo un po' oggi se ci sono delle novità. Allora, tra i 55.000 lavoratori che saranno salvaguardati rispetto all'aumento dell'età pensionabile, ci saranno 40.000 lavoratori interessati ad accordi di mobilità ordinaria. 55.000 sono quelli del secondo pacchetto individuato dal Ministero del Welfare dopo i primi 65.000. 1.600 lavoratori già nei fondi di solidarietà, 7.400 prosecutori volontari e 6.000 lavoratori cessati per queste ultime due categorie, solo se la decorrenza della pensione è entro il 2014. È davvero una questione molto complessa. Allora, direi di lasciare il lavoro. Un'altra notizia di oggi è che il comitato esecutivo dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha indicato Giuseppe Mussari, presidente dell'associazione, riconfermandolo nella carica per altri 2 anni. Lo ha annunciato il coordinatore dei saggi di ABI, Alessandro Azzi, al termine del comitato che si è svolto oggi. L'andamento riflessivo del mercato immobiliare, avete sentito sia ieri a Focus e abbiamo parlato anche oggi a Salvadanaio, l'agenzia del territorio ha reso noto che nel primo trimestre di quest'anno le vendite sono crollate nel settore residenziale di quasi il 20%, le compravendite. L'andamento riflessivo del mercato immobiliare pesa sulla dismissione degli immobili degli enti previdenziali. Dopo il negativo esito dell'operazione di cartolarizzazione SHIP 2, le dismissioni procedono con molta difficoltà e in alcuni casi il rischio è quello di svendite, lo ha evidenziato oggi la Corte dei Conti. Due dati sull'andamento della nostra industria. Secondo quanto ha fatto sapere oggi Istat, il fatturato dell'industria ad aprile è sceso dello 0,5% rispetto a marzo, trascinato in basso dall'estero, e del 4,1% su base annua. Lo ha rilevato appunto l'Istat, sostenendo che sulla performance tendenziale pesa l'andamento registrato sul mercato interno. Gli ordinativi dell'industria ad aprile sono scesi dell'1,9% sempre su base mensile, risentendo dell'andamento sull'estero, e sono scesi di ben il 12,3% su base annuale, con una diminuzione particolarmente pronunciata per il mercato interno. Direi che per oggi, con le notizie in breve, è tutto. Andiamo al primo approfondimento di oggi. Questo è quanto si è inventata la redazione di Focus Economia per preannunciare, come facciamo quasi ogni giorno, le novità sul fronte europeo e tutte le soluzioni che si stanno studiando, le varie discussioni a vario livello politico appunto che si stanno tenendo per arrivare ad una soluzione di questa fortissima crisi del debito sovrano in Europa. Allora, a parte le notizie che sono arrivate dallo Scabos in Messico, dal vertice del G20, non a parte le notizie, diciamo che le notizie più importanti nelle ultime ore sono arrivate da là, perché da là Mario Monti ha lanciato questa proposta che potrebbe portare intanto ad una calma, anche se temporanea, sui mercati. E cioè, Mario Monti ha detto, facendo dunque tutta italiana questa proposta, se potessimo consentire al fondo temporaneo di stabilità di comprare titoli di Stato, soprattutto nelle fasi di fibrillazione molto alta dei mercati, potremmo già contribuire appunto ad una tranquillizzazione degli animi degli operatori, quindi arrivare ad una parziale soluzione appunto della problematica attuale. E però, insomma, inizialmente il mercato ha risposto molto bene senz'altro a questa proposta, però diciamo che Bruxelles non è apparsa particolarmente contenta, e soprattutto da Bruxelles sono arrivate oggi non delle contestazioni, ma così anche delle battute forse poco eleganti, perché, come vi dicevo prima, il portavoce del commissario agli affari economici e monetari, Olli Rehn, ha detto: questo è un paracetamolo, e quindi, come dire, una medicina che dà una soluzione solo temporanea. E il paracetamolo lo sapete, anche perché molti ascoltatori si stanno chiaramente divertendo molto a spiegarmi che cos'è questo farmaco equivalente, l'equivalente della tachipirina, per cui chiaramente gli stati febbrili vengono calmati temporaneamente, poi è chiaro che la febbre deve passare con qualcos'altro, con un antibiotico, con un medicinale più forte. Detto questo, le novità di Bruxelles le commenteremo tra poco con Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore. Prima però andiamo subito ad Atene, da Vittorio Darold, che saluto. Vittorio, buonasera. Allora, qua buonasera oggi gli orari si sono rincorsi sulle agenzie. Il governo di Samaras ha giurato o no? Sì, Samaras ha già giurato appunto davanti al capo della Chiesa ortodossa, come è consuetudine, e davanti appunto al presidente Papoulias. C'è stato un cambiamento nei tempi ed è stato appunto deciso di dare subito il via al giuramento 3 ore in anticipo rispetto alla all'agenda che si era prima data il governo. A questo punto stiamo aspettando la lista dei ministri, perché questa invece potrebbe arrivare domani. Non c'era molto tempo da perdere, perché la Costituzione greca permette solo di fare, appunto, entro 3 giorni di trovare l'incarico al primo leader arrivato nelle elezioni, dopodiché passa alla seconda formazione partitica. In questo caso, se il nostro Samaras non avesse giurato entro questa sera, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto passare la mano a Tsipras, cioè al secondo partito di sinistra radicale, e quindi, questo avrebbe naturalmente creato non pochi problemi. Figuriamoci se si sono sbrigati o no. È vero che non ci saranno i socialisti nel governo di Venizelos? Ecco, è ancora un aspetto poco chiaro. Sembra, appunto, io sono alla sede del PASOK, dove appunto c'è un braccio di ferro interno fra Venizelos, che non vuole partecipazioni a livello di rappresentanti ministeriali al governo, proprio per dare il segnale di un appoggio, ma molto esterno all'esecutivo, che quindi resterebbe sostanzialmente in mano alla nuova democrazia. E invece altri esponenti forti, come l'ex ministro del lavoro Lavardevos, che dice entriamo a tutti gli effetti. Quindi questo è ancora un elemento aperto, mentre il terzo partito, quello più piccolo di sinistra democratica, si limiterebbe appunto a un appoggio esterno. Vittorio, come ha reagito oggi la borsa di Atene alle novità delle ultime ore? Vabbè, novità non ce ne sono, perché ancora nomi dell'esecutivo greco non ne abbiamo, probabilmente ci saranno delle indiscrezioni, ma quantomeno questa velocità anche nel giuramento ha fatto bene alla borsa? Sì, ha fatto bene, anche se resta ancora da capire il programma e la rosa dei ministri, perché tutta l'attenzione è naturalmente sul ministro delle finanze. Si fa il nome appunto di Rapanos, che è l'attuale capo presidente della più grande banca greca, la Banca Nazionale, anche se alcuni ricordano che Rapanos era proprio il capo dei consulenti economici dell'allora ministro delle finanze dal 2000 al 2004, quando ci furono appunto quei sospetti di conti truccati per entrare appunto nell'euro. Allora Vittorio, visto che, come ci hai spiegato tu, il governo si deve formare entro pochissimo, oggi siamo già andati appunto al giuramento, non appena l'esecutivo greco ci sarà, con nomi e cognomi di tutti i ministri e di tutti gli incarichi, chiaramente soprattutto quelli che saranno destinatari dell'impegno in seno alle finanze pubbliche, saranno sicuramente quelli più impegnati prossimamente, gli step successivi di questo esecutivo quali saranno? Ci sarà per esempio un incontro, non lo so, immediato, nel giro di pochi giorni, con gli esponenti della Troica che li sta controllando in maniera ossessiva in ogni loro passo, sia politico che economico? Il primo passo inizia domani con l'Eurogruppo e andrà appunto l'attuale ministro delle finanze ad interim, cioè del precedente governo, Zanias, che rappresenta appunto il paese, nonostante non ci siano ancora i nuovi ministri. Ci sarà un incontro fra un'ora circa con i 3 esponenti dei 3 partiti che sostengono appunto la coalizione, e per dare il senso di una certa difficoltà anche a trovare subito una soluzione, questo ministro verrà appunto mandato a spiegare che c'è un governo, qual è la sua piattaforma, e che la prima volontà è quella di rinegoziare il memorandum appunto con i creditori, perché questo è il vero problema. La Grecia vuole ridurre almeno di 2 anni questo impegno che ha a luglio, che è il primo passo, cioè dovrebbe trovare tagli supplementari per 11 miliardi nel 2014 e 2015. Allora il governo appunto Samaras vuole avere almeno 2 anni in più. Certo. Per non colpire ulteriormente con altre misure di austerity un paese che è già praticamente da 5 anni in recessione, quindi sarebbe un'ulteriore mazzata sull'economia che poi ha anche problemi di calo del turismo, perché quest'anno si prevede un calo delle presenze del 5% dovute anche a questa instabilità politica. Ovvio, certo, i turisti temono il disordine sociale, è chiaro. Grazie a Vittorio Darold. Io devo volare subito, per modo di dire, a Bruxelles, dove c'è Adriana Cerretelli, che saluta. Adriana, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo sentito da Vittorio Darold, che ci ha raccontato a che punto è la formazione del nuovo esecutivo greco, nuovo ministro delle finanze, dovrà volare nelle prossime ore a Bruxelles per incontrare l'Eurogruppo e fare il punto della situazione sulle iniziative che questo governo deve mettere in campo e soprattutto in che modalità intende rinegoziare gli impegni anche con le istituzioni finanziarie, perché le vuole giustamente procrastinare. Detto questo, oggi a Bruxelles si è consumata quest'altra vicenda, questa posizione della Commissione nei confronti di Mario Monti, portavoce di questa proposta per evitare oscillazioni eccessive sugli spread. Mario Monti aveva detto: consentiamo al meccanismo temporaneo salva stati di acquistare titoli di Stato per appunto arginare gli effetti eccessivi del mercato. E però il portavoce appunto di Ren gli ha detto: sì, va bene, una bella iniziativa, però non è nient'altro che un paracetamolo e quindi una tachipirina, qualcosa che raffredda solo momentaneamente le problematiche, ma non le risolve di certo. Ecco, hai avuto modo di appurare effettivamente che tipo di intenzioni in questo commento ci fossero dietro le parole del portavoce di Ren, Adriana? Sicuramente, diciamo, l'accoglienza non è stata delle più cordiali. Esatto, infatti l'eleganza esatto. Sicuramente non è stata, ecco, la padrona della situazione. Però io devo dire anche che forse le parole di Monti sono state un po' interpretate come una fuga in avanti, e lo dico perché ieri era qui il ministro Moavero, il quale aveva parlato di questo meccanismo dicendo che eravamo ancora alle prime battute, che era ancora allo studio in Italia e che non era ancora stato, diciamo, sviscerato a dovere con i partner. Ora, in realtà diciamo che è un po' un balletto generale su questa vicenda, nel senso che sicuramente il Fondo Salva Stati dall'ottobre-novembre scorso ha la possibilità di intervenire sul mercato secondario con l'acquisto di titoli, e quindi diciamo ci sono delle possibilità per ammortizzare diciamo i colpi che derivano ai singoli stati membri quando gli spread cominciano a strappare come sono strappati negli ultimi giorni. Il problema è che non c'è ancora un accordo e quindi di questo argomento bisognerà discutere al vertice. E quindi la Commissione può far tutto fuorché, diciamo, fare dei commenti di tipo positivo. Detto questo, la strada sarà sicuramente in salita, perché naturalmente coagulare un accordo su questi temi, e lo conosciamo, lo sappiamo dall'inizio della crisi dell'euro, non è affatto facile. Però io credo che questa volta ci siano in effetti le condizioni per cercare di trovare qualche modo nuovo per mettere un freno a questa speculazione che altrimenti proprio sta bruciando ogni passo che fanno i paesi dell'euro. Abbiamo visto l'Irlanda, obtorto collo, ha detto sì al referendum sulla ratifica del fiscal compact, la Grecia ha detto sì all'euro, la Spagna presenterà domanda per questi aiuti, ma ogni volta non basta mai, no? Quindi ci vuole sicuramente un meccanismo che indichi ai mercati che a questo punto si fa sul serio, che a questo punto si mette un freno diciamo al collo della speculazione, e sicuramente questo meccanismo antispread potrebbe essere uno di quelli, però diciamo che è prematuro darlo per fatto, insomma, quello è vero, però la borsa, il protocollo anche, il mercato, ecco. Oggi esatto, è sembrato invece molto contento di una soluzione di questo tipo, perché abbiamo visto che gli spread si sono raffreddati parecchio, per cui sarà anche un paracetamolo, ma almeno oggi è servito. La borsa tra l'altro sta chiudendo, Milano con un più 2%, c'è stato un grande recupero per le banche. Adriana, qua si stanno moltiplicando le voci secondo cui Cipro starebbe per chiedere un aiuto finanziario per le banche. Questa era una voce che circolava da tempo, ma proprio da Bruxelles, secondo altri nostri colleghi, potrebbe essere questa notizia confermata da un momento all'altro. E sì. pare che il caso Cipro possa essere discusso proprio nella riunione dell'Eurogruppo domani pomeriggio a Lussemburgo, tra l'altro. Assolutamente sì, sono giorni che si parla della necessità di Cipro, appunto, di chiedere aiuti, e sembra che li chiederà l'Europa e anche alla Russia. E quindi niente, Cipro naturalmente è un problema relativamente piccolo, ma è un altro sintomo del disagio e dei problemi che ci sono sul fronte delle banche, perché Cipro chiederà come gli spagnoli, appunto, per le sue banche gli aiuti, non per l'economia del paese. Sì. È sicuramente questo un momento di grande instabilità, però ecco, io non vorrei essere stata fraintesa prima. Quello che voglio dire è che ci sono delle modalità, dei percorsi diplomatici per arrivare a quel traguardo, che non è un traguardo facile, ma certamente, proprio perché potrebbe essere una misura che scoraggia la speculazione, potrebbe essere il momento per immaginare, diciamo, un varo di qualche tipo di misure di questo genere. Certo, no, tra l'altro stavo pensando, Monti dice utilizziamo il meccanismo finanziario temporaneo, no? Ma a luglio entrerebbe in vigore anche il meccanismo di stabilità permanente, per cui per la verità forse si dovrebbe studiare un meccanismo affinché sia l'altro ad intervenire sui titoli di Stato. Adriana, questo non complica un po' le cose? Tutto sommato il vecchio fondo non sta andando a morte naturale? Dunque, come sempre in Europa le cose non sono mai semplici. Allora, in teoria l'ESMA, che è quello che dovrebbe entrare in vigore il 1° di luglio, non può entrare in vigore perché non è ancora stato ratificato da tutti i paesi. Tra l'altro anche l'Italia ancora non l'ha ratificato e si spera che lo faccia nei prossimi giorni. Quindi potrebbe non riuscire a entrare in vigore come previsto. E questo, allora, in questo caso rimarrebbe il fondo provvisorio. Ma questo non sarebbe un problema, nel senso che sia l'uno che sia l'altro, poi ci sarebbero delle modalità diverse di funzionamento, ma insomma l'importante sarebbe intervenire in assenza dell'ESMA, ammesso che, come è probabile, slitti la sua entrata in vigore di qualche settimana. C'è sempre l'altro fondo, salva stati, che può calmierare un po' il mercato. Certo. Quindi diciamo non saremmo disarmati, ci vuole la volontà politica per mobilitarlo, le regole infatti, ci sono insomma. E infatti intanto oggi, a proposito della politica, concludiamo con una notizia curiosa: non vuole perdere il match Germania-Grecia Angela Merkel venerdì prossimo, e per questo motivo la cancelliera avrebbe pregato Mario Monti di anticipare il vertice previsto a Roma per poter volare a Danzica in tempo per il quarto di finale. Almeno anche la signora Merkel si diverte un po' nei prossimi giorni. Adriana Cerretelli, grazie per essere stata con noi, buona serata. Molto prudente la seduta a Wall Street, con il Dow Jones che è negativo, meno 0,11%, Nasdaq assolutamente fermo sulla parità, Standard & Poor's meno 0,16%, l'Europa oggi mattinata assolutamente contrastata, indici in direzioni differenti, Parigi però sul finale riesce a mettere a segno un rialzino dello 0,28%, più consistente quello di Francoforte, più 0,45%, Londra più 0,58% e Milano cosa fa? Porta a casa un più 2,13%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. In due giorni più 5,5 punti praticamente, non rivedremo forse per lungo tempo, speriamo di rivedere ancora queste prestazioni, però ci eravamo disabituati. Eh sì, infatti Piazza Affari ha recuperato, ma soprattutto sono andati molto bene i titoli di Stato, in particolare lo spread è calato attorno a 416 punti e soprattutto anche il rendimento dei titoli di Stato, ad esempio quelli a 10 anni, è calato al 5,76%, ricordiamo che solo pochi giorni fa stava sopra il 6%. Stesso discorso si può fare per la Spagna, che ha visto calare i rendimenti dei titoli a 10 anni sotto la fatidica soglia del 7% al 6,74%. Insomma, gli investitori hanno subito tirato un sospiro di sollievo, e poi Piazza Affari è andata meglio delle altre perché si sa ricca di titoli finanziari, banche che a loro volta hanno la pancia piena di titoli di Stato. Andiamo a vedere chi si è comportato particolarmente bene oggi a Piazza Affari. A parte il vigoroso recupero delle banche, per le quali appunto ha inciso, come dicevamo, l'effetto spread, poi qualcuna ha anche qualche storia sua da raccontare, come Monte dei Paschi, ci sono delle novità su UniCredit, ma comincerei con le regine della giornata. Finmeccanica più 6,87%, Mediolanum più 6,70%, Eleonora. Sì, per quanto riguarda Finmeccanica, già da qualche giorno si ipotizza che la società possa essere nel mirino di investitori stranieri americani, e quindi questo ha un po' infiammato le azioni. Di fatto e di sicuro potrebbe essere a breve che la società possa annunciare delle cessioni. Del resto, da qui a fine anno ha messo in canna tutta una serie di cessioni che dovrà effettuare, e che è cosa nota peraltro, e quindi i titoli, fondamentalmente, viste anche le basse quotazioni, si sono letteralmente risvegliati. Mediolanum ha beneficiato un po' dell'andamento del mercato e ovviamente anche dei titoli di Stato. Quando si è risvegliato tutto, ovviamente, essendo una società di gestione, ne ha direttamente beneficiato. Più 6,35% anche per la Popolare dell'Emilia Romagna, più 6,27% per Mediobanca. Monte dei Paschi più 5,89%, qua cessioni in vista per il gruppo. Eh sì, cessioni in vista, soprattutto è scattato il conto alla rovescia per il piano industriale che sarà firmato dal nuovo amministratore Viola, piano che verrà discusso dal consiglio di amministrazione in calendario lunedì e presentato martedì alla comunità finanziaria. Da qui a martedì si presuppone che la banca possa annunciare la cessione di Viver Banca, dalla quale si mette in conto che la stessa Rocca Salimbeni possa incassare attorno ai 200 milioni di euro. Certo, sono momenti difficici, il titolo sta a 0,19 anche perché sappiamo che l'EBA ha richiesto un rafforzamento del capitale per 3,2 miliardi di euro, all'appello manca ancora circa un miliardo, e quindi da qui a lunedì bisogna vedere che cosa tirerà fuori Viola dal cappello. Come si potrà fare? Perché esatto, aumenti di capitale potrebbero essercene di nuovo in vista per... I vertici dell'istituto hanno sempre detto che eviteranno gli aumenti di capitale, ricorreranno probabilmente a strumenti ibridi, coco bond si chiamano, o comunque appunto a una serie di cessioni. Fatto sta che l'EBA ha posto questa condizione di una ripatrimonializzazione di 3,2 miliardi. Oggi, ai prezzi di oggi, il monte in borsa vale solo 2,3 miliardi. Incredibile, una ricapitalizzazione più che doppia rispetto al suo valore. Incredibile. Volevo raccontare qualche cosa, anche se non è stato tra i titoli migliori del giorno, qualcosa di Unicredit che adesso non riesco a trovare. Eccolo qua, più 2,55%. Prima però un attimo vorrei salutare anche Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Presidente, buonasera. Buonasera. Le faccio ascoltare qualche caso di borsa, così almeno allieto lei e anche i nostri ascoltatori che si aspettano le consuete cattive notizie da parte sua, quindi dovremo cercare in qualche maniera nei prossimi mesi di invitarla anche per raccontarci qualcosa di più divertente. Sto scherzando chiaramente, Presidente, ma ci sentiamo tra un attimo per appunto anticipare agli ascoltatori che invece da luglio arrivano nuovi aumenti per quello che riguarda le bollette. Però andiamo ancora appunto alla borsa. Unicredit, i libici oggi si sono fatti sentire, Eleonora. Esatto, i libici in verità hanno fatto tirare un sospiro di sollievo, perché hanno detto che manterranno la quota in Unicredit, non solo, ma chissà, se ci saranno opportunità potranno anche salire nel capitale acquistando azioni sul mercato, e quindi questo, soprattutto questa mattina, aveva sospinto in alto le azioni. Poi, come hai notato tu, sul finale hanno ridotto i guadagni al 2,55%, non sono stati tra i migliori titoli, però hanno comunque guadagnato terreno. Sì, se mettono in campo tutta la loro potenza di fuoco finanziaria, se la comprano tutta Unicredit, se volessero, con questi prezzi, perché veramente siamo a dei livelli assolutamente di minimo storico per Piazza Cordusio. Mediaset, che cosa ha fatto quest'oggi tra i migliori titoli, più 5,32%? Sì, Mediaset, diciamo che uno studio di Mediobanca ha messo in evidenza che secondo i dati diffusi ieri da Rai, è emerso un miglioramento della raccolta pubblicitaria per il mese di giugno per tutto il comparto appunto del televisivo, quindi questo ha messo le ali letteralmente a Mediaset, più 5,3% a 1,4 euro. Anche Mediobanca appunto ha espresso quindi questo giudizio favorevole, e peraltro quindi diciamo questa indicazione che arriva poi dalla Rai ha dato il là agli acquisti su un po' tutto il comparto editoriale che, come sappiamo, vive di pubblicità. Allora, andiamo a qualche altra storia, quella di Telecom per esempio, più 36%, il titolo corre da qualche giorno, da quando sembra essere partita appunto la trattativa, comunque la individuazione dei percorsi da poter fare per poter effettuare lo scorporo della rete. Esatto, ieri proprio il Sole 24 Ore ha ipotizzato un piano dove venga utilizzata la rete, un piano le cui trattative sarebbero in corso con Metroweb, che ricordiamo è finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Telecom ha smentito. D'altra parte il mercato da ieri ritiene che qualcosa sulla rete ci sia, qualcosa allo studio, e è per questo che da ieri appunto le azioni sono ben comprate, hanno recuperato il livello di 0,75 euro. Allora, vorrei vedere un attimo i peggiori di oggi. Riusciamo a portare a casa una giornata in cui sul paniere dei 40 principali titoli non ce n'è nessuno con il segno meno. Davvero giornate così non ne vedevamo, da neanche ce lo ricordiamo da quanto tempo. Il titolo peggiore Eni, che ha guadagnato lo 0,24%, poi Luxottica più 0,26%, Lottomatica più 0,47%, Tenaris più 0,58%, Terna, Salvatore Ferragamo e Tozze più 0,6%, più 0,7%. Ultima storia, ne scegliamo una fuori dal paniere principale, Eleonora? Sì, cioè, ci sono oggi tanti titoli che si sono mossi e che si sono messi in evidenza. Semmai vale la pena parlare di Prelios, sul finale poi i titoli hanno rallentato, però in questo caso a credere nella società è un istituto importante, Norges Bank, che appunto è l'istituto centrale della Norvegia e che punterà al 5% della società. È stato ufficializzato appunto il rafforzamento nel capitale, e quindi questo soprattutto durante della seduta aveva infiammato le azioni. Benissimo, grazie ad Eleonora Micheli, buona serata. Buona serata. Andiamo subito a parlare di bollette, quindi cambiamo argomento. Ve l'ho già presentato, qualche minuto di tempo da trascorrere con Davide Tabarelli, presidente di Nomina Energia, che risaluto di nuovo. Presidente, buonasera. Buonasera. Mi tolga una curiosità, già ricevuto una telefonata di Guido Bortoni, che è il presidente dell'autorità del gas e l'energia, perché so che in genere in certi frangenti qualche litigata la fate quando anticipate voi gli aumenti. Sì, ma in effetti è impressionante che ha il mondo della stampa su questo argomento, perché mi è sfuggito così questa prima riflessione in queste dinamiche folli che ci sono in questi giorni ai prezzi del petrolio, e subito c'è stata un'esplosione su questo punto, perché ovviamente la questione è molto sentita dai consumatori. E infatti, anche perché dopo aver subito l'aumento veramente enorme dello scorso inverno, adesso arrivandone un altro, lei capisce che per certe famiglie che non possono certo fare a meno di utilizzare l'acqua calda, accendere la luce, lo sforzo finanziario sta cominciando a diventare davvero elevato, insostenibile. In ogni caso, Nomisma Energia stima che da luglio per il gas ci sarà un incremento ulteriore del 2%, per la bolletta dell'elettricità dell'1-1,5%. Questo quantomeno è contenuto, ma ricordiamo che siamo reduci da due aumenti consecutivi che hanno fatto scattare un aumento del 10% nell'ultimo appunto trimestre complessivo per l'elettricità. Quali fattori hanno condotto a questi nuovi aumenti, Presidente? Sono i prezzi del petrolio degli ultimi nove mesi che vanno a determinare poi le quotazioni del prezzo del gas che consumiamo nelle case, e poi anche il costo del gas nelle centrali termoelettriche, che è la principale componente della tariffa finale dell'elettricità, perciò c'è questa tendenza al rialzo. Sull'elettricità c'è anche l'aggravante più complicata che riguarda le rinnovabili, che sta arrivando una quantità di fotovoltaico straordinaria, non a caso siamo stati il primo paese al mondo, che ha dei costi, sono pulite, fanno green economy, ma sono un po' care. Sono care, soprattutto i costi vengono spalmate su tutta la platea dei consumatori, meccanismo che qualcuno non comprende, ma praticamente siamo noi stessi che finanziamo queste novità sul fronte energetico, Presidente, così? Esatto, siamo noi, i consumatori tutti, consumiamo 300 miliardi di kilowattora ogni anno più o meno, purtroppo i consumi stanno crollando perché il paese si va deindustrializzando, però produciamo circa 10-15 miliardi di kilowattora perciò 15 su 300 da rinnovabili, in particolare da questo fotovoltaico, e che ha costi molto alti, pertanto va finanziato. Nessuno ci crederà, però una buona notizia c'è, perché Nomisma, in 10 secondi, Presidente, da ottobre prevedete delle riduzioni, sì, giusto? Perché il prezzo del petrolio è crollato in queste ultime settimane, ci sono le super offerte sulla benzina, ci sono i prezzi che calano anche durante la settimana e ci sono le medie che cominciano a scendere per la prossima rilevazione successiva, quella di luglio, che sarà il 1 ottobre, lì dovremo avere finalmente le bollette in casa. Non vediamo l'ora di sentirla a settembre per confermare queste buone notizie. Presidente Tabarelli, grazie, buona giornata, buona grazie serata. Grazie a voi, grazie. A presto. Cominciamo con il microcredito. Per chi si fosse perso la prima parte, la giornata di borsa è stata molto positiva. Milano ha chiuso con un più 2%, chiusa parentesi perché qualcuno l'altra parte appunto di Focus la perde, quindi aggiorniamo almeno con questa buona notizia. In due giorni più 5,5 punti per il FTSE MIB. Giornate che non vedevamo da tempo, per cui le vogliamo ribadire con forza. Detto questo, appunto, parliamo di microcredito. Molti di voi ne avranno sentito molto spesso parlare, soprattutto per quello che riguarda l'esperienza internazionale più nota, che è quella che come dire, in qualche maniera è rappresentata dal volto e dal lavoro di Muhammad Yunus, il padre fondatore della Grameen Bank, colui che soprattutto nei paesi molto poveri del mondo, in India in particolar modo e quindi in quelle aree lì del mondo, ha portato questa esperienza sostanzialmente aiutando le persone estremamente povere, quindi assolutamente impossibilitate ad avere ogni tipologia di approccio con il mondo del credito, ad avere anche un piccolissimo finanziamento per attività, per uscire intanto dall'esclusione sociale, quindi per uscire dall'emarginazione totale, e favorendo in questa maniera la lotta alla povertà e aiutando queste persone appunto ad intraprendere delle piccole attività di impresa. E anche noi in Italia abbiamo un'esperienza di questo tipo. Si sono cimentati in questo mondo anche alcuni soggetti finanziari in passato, e poi attraverso una legge del 2006 è nato anche l'Ente Nazionale per il Microcredito, che è un organismo di diritto pubblico ed è nato proprio con lo scopo di dare sostegno economico all'impresa, ma soprattutto alla persona, favorendo anche in Italia la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Come sta andando questo ente? Ha già erogato dei fondi? Mi risulta che ancora non sia partito, però insomma si stanno serrando probabilmente i ranghi per partire in termini più pratici e concreti. Allora io saluto il presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito, che è Mario Baccini, l'onorevole Mario Baccini. Buonasera, mi sto incespicando. Buonasera a tutti. Allora, già parlo da un sacco di ore, presidente, abbia pazienza, sa com'è quando no, è la fine. Ma lei in pochissimo ha spiegato benissimo qual è la vocazione sì. del microcredito. Quali sono le sue missioni, le missioni da Yunus all'Italia, alle casse rurali, ai banchi di pegno, perché anche l'Italia, non dimentichiamo, ha una storia naturale ancora prima del premio Nobel, perché insomma, sull'autoimpiego, sull'agricoltura, sull'agricoltura, sulle attività rurali, si è cimentata sempre nella microfinanza. Oggi ci siamo dati, il Parlamento italiano, devo dire, all'unanimità, nella stragrande maggioranza, si è dotato di una struttura pubblica in controtendenza, diciamo, all'automatismo del mercato, per attuare l'economia sociale di mercato, e stare vicino a quelle fasce che cosiddette non bancabili. Stare vicino significa creare loro delle garanzie, selezionarli, insegnargli, almeno per i più deboli, quelli che non avrebbero speranza nella nostra comunità, insegnargli a fare un business plan e a finanziarli tramite il sistema bancario, garantito ovviamente da fondi di garanzia promossi da qui come istituzione pubblica, con fondi anche di enti locali, di enti regionali e privati, proprio per arrivare a un accompagnamento di questa azienda, di queste microaziende che ovviamente con un piccolo costo sociale, con un piccolo contributo pubblico diventano contribuenti attivi, da una passività per i servizi sociali nazionali, una passività perché in termini di sicurezza e di esclusione sociale rappresentano un problema. Quindi si rimette al centro la persona e si fa diventare questa persona contribuente attivo, da numero diventa una persona in carne ed ossa. Ecco, queste ci dà qualche concretezza rispetto a questo, a questo lavoro che si fa con l'Ente Nazionale per il Microcredito, Presidente, perché la gestazione dell'ente è stata piuttosto lunga ed articolata. Adesso siete pronti a partire e per 2.000 piccole attività economiche sono pronti a partire appunto prestiti per 25.000 euro ciascuno, mi pare. Noi già abbiamo pronti i nostri fondi di garanzia, che sono appunto costituiti già da attività di fondi privati, anche con un nostro intervento dell'ente nazionale, e quindi non solo faremo partire questa iniziativa con fondi di garanzia intorno ai 10 milioni già dai prossimi mesi, ma che sviluppano con un rapporto leva da 1 a 5, cioè con un milione di garanzia possiamo sviluppare 5 milioni di credito. 5 milioni di credito che in soldoni, proprio con un milione di garanzia, significano almeno 250 microimprese, vengono tirate fuori proprio da quei settori, da quelle fasce di disagio, della estrema povertà, che oggi non avrebbero accesso al credito. Ci può fare una fotografia delle attività di impresa che avete intenzione di sostenere? Avete fatto un monitoraggio? Chi si è rivolto a voi? Sì, noi parliamo dalle nostre, perché non dimentichiamo che abbiamo anche un'attività che per la prima volta l'Italia riesce a intercettare fondi della Comunità Europea, perché noi, a fronte di un investimento dello Stato di 1 milione l'anno che il nostro ente spende, siamo riusciti a intercettare oltre 10 milioni, intorno ai 10 milioni di fondi PON della Comunità Europea, e abbiamo dato già lavoro a circa 90 giovani laureati che lavorano per noi in questi progetti europei. E non dimentichiamo che questi progetti europei appunto sono finanziamenti non dello Stato italiano ma della Comunità Europea. Ecco, il 60% di queste risorse ritorna allo Stato italiano in termini di imposte e di oneri che con le tasse noi facciamo in Italia. Presidente, quindi, sì, no, la lascio concludere, poi avevo un altro paio di domande. No, ecco, poi per tornare anche alle cose operative, quindi fondi di garanzia che sono operativi. Già dalla prossima settimana ci sarà un numero verde del nostro ente pubblico per andare sul mercato. Noi perché non siamo partiti con questa iniziativa fino a oggi? Perché ovviamente andando in mare aperto significa intercettare tutto il disagio che c'è nel nostro paese in un momento così critico, quindi ci telefonerà di tutto, dalla persona che vorrà acquistare la lavatrice a quello che non riuscirà a pagare il mutuo. Ma ecco, anche esatto, immagino coloro che fino a ieri andavano in banca tranquillamente senza alcun problema, magari potrebbero effettivamente. Allora, quelle persone noi le selezioneremo, sarà fatto un monitoraggio, sarà preparata ovviamente una scheda operativa per verificare le richieste nel nostro paese subito dopo con alcune banche a livello regionale, ma anche nazionale, si svilupperanno anche gli accordi per il finanziamento con le nostre garanzie. Un'iniziativa importante, per esempio, che già stiamo portando avanti, già è partita, di fundraising, significa che si sta raccogliendo un fondo. Già per esempio la comunità San Patrignano ha messo 1 milione e insieme agli artigiani milanesi, all'associazione degli artigiani milanesi, ad alcune regioni, proprio per costituire questo fondo di garanzia che sarà alimentato anche dalla rete dei comuni per gli accordi che stiamo facendo in tutta Italia, perché non dimentichiamo che in Italia ci sono molte istituzioni, anche se locali, ma molte istituzioni che fanno bene la microfinanza e noi cerchiamo di metterle in rete. Il senso della istituzione pubblica significa fare la rete, fare squadra, fare sistema, perché da piccoli numeri si fanno i grandi sì, dubbi. Presidente, io purtroppo devo salutarla, magari coglieremo l'occasione per invitarla ad una puntata di Salvadanaio e averla per più tempo. L'ultima domanda che le voglio fare, la provoco un po', perché avevo letto sull'Espresso qualche tempo fa che lei aveva pensato di affidare la sua indennità per questo incarico ad un fondo di garanzia per favorire appunto il microcredito. L'ha fatto? Glielo posso chiedere? Certo, l'ho fatto, ma lo stiamo facendo anche in larga parte, perché i fondi di garanzia saranno alimentati anche con gli interventi personali, io stesso non solo in questo senso, ma anche con altri interventi che, se vuole, poi ne parleremo. Stiamo finanziando anche delle fondazioni che fanno della pura solidarietà, però questo è un'altra storia. Noi interveniamo in questo fondo di garanzia anche con interventi di natura finanziaria personale. Benissimo, io segnalo agli ascoltatori che fossero interessati il sito del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito. Andando su Google mettete questa indicazione e trovate appunto tutte le informazioni sull'attività di questo ente. Presidente Baccini, ci risentiamo presto, grazie, buonasera. Grazie, arrivederci a tutti. Focus Economia termina qui, grazie ad Alessandro Longoni e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Valeria Bernardi stasera in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani a tutti, buona serata. Radio 24, la passione si sente.